Il consueto buonasera a tutti voi, ben ritrovati dalla voce di Marco Gravelli, secondo appuntamento della settimana, oppure il quarto se seguite la replica del giovedì di Arden Devi, spazio offerto ogni sera dalle 20 alle 21 e proposto su Rock FM da Mariposa Dischi, il nostro sponsor, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Come sempre diamo il via alla scaletta musicale creata dal nostro autore Simone, che ci permette di agganciare il passato che arriva questa volta dalla Danimarca, da Copenaghen, e con una formazione che abbiamo anche ospitato. Io ho intervistato due, tre volte, ho visto nelle varie radio in cui ho proposto questo tipo di programma. Si parla dei DAD, band composta da quattro elementi nati nell'80, il nome è Disneyland After Dark. Con questo nome registrano un EP nell'85 ed è anche il loro album d'esordio, Call of the Wild, dell'86. Cominciano a farsi conoscere in tutta la Scandinavia e a questo punto, visto che stavano diventando famosi, per evitare problemi legali con la Walt Disney, sintetizzano il loro nome semplicemente con le iniziali DAD. Curiosità per quanto riguarda il nome: da prima usarono il punto per separare le lettere, poi dal 95 usarono i due punti e alla fine nel 2000 usarono i trattini. Insomma, queste sono piccole sottigliezze che però vi segnaliamo. Importante per la band è stato il terzo album, No Fuel for the Pilgrims, dell'89, che gli diede una certa notorietà, soprattutto per il singolo molto trascinante che andremo ad ascoltare tra breve, cioè Sleeping My Day Away, e poi il successivo Risk It All del 1991. Nonostante tutto, la loro notorietà rimane però legata alla Scandinavia e ad altre nazioni europee. La band è ancora oggi esistente, lo scorso anno, un anno e mezzo fa, sono venuti anche a proporre il loro nuovo album dal vivo qua in Italia. L'album si intitola Scare Yourself, risale esattamente a due anni fa, quindi nel 2005, mentre lo scorso anno è uscito il terzo album dal vivo, Scare Yourself Alive. Li proponiamo, quindi li ritroviamo, li riascoltiamo con il loro classico Sleeping My Day Away DAD. Sleeping My Day Away per D.A.D. dall'album No Fuel for the Pilgrims, il loro lavoro più importante, decisamente più famoso, che abbiamo ritrovato proprio in apertura questa sera del nostro spazio di Hard and Heavy. Andiamo a Francoforte, scendiamo dalla Danimarca, da Copenaghen a Francoforte, con la thrash metal band dei Tankard, che è solita definire il proprio sound alcoholic metal per la loro devozione, lo sapete benissimo, alla birra. Proprio così. Gruppo che nacque nel lontano 92 grazie al cantante Andreas Geremia, detto Gerre. Dopo due demo arrivano al debutto nell'86 con l'album Zombie Attack, uscito tramite Noise Records, che ne pubblicherà anche i lavori sino al 1995, quando poi l'etichetta cessò di esistere, e da allora sono passati alla Century Media, infine alla AFM Records, che ha pubblicato gli ultimi tre album. L'ultimo, in ordine di tempo, uscito lo scorso anno, si intitola The Beauty and the Beer. Il gruppo negli anni ha subito pochi cambi di line-up, sostituendo due chitarristi e due batteristi, non molto se tenete conto che sono nati nell'82. Ad oggi i membri originali sono il cantante e il bassista. In tema di uscita, in occasione dei 25 anni della band, è stato pubblicato un best-of dal titolo Best Case Scenario 25 Years in Beer, naturalmente con il boccale di birra, nel quale sono presenti 15 tracce del passato, per l'occasione riregistrato, ed è disponibile anche in limited edition con un bonus CD di ben 18 tracce coverizzate da diversi gruppi. Una, definiamola così, iniziativa particolare, tra i quali segnaliamo gli italiani Secret Steel, i Paragon, Manticora e appunto gli italiani Hates. Andiamo ad ascoltare allora il loro primo successo, il brano che dava il titolo al primo album, Zombie Attack Tankard. Proprio loro, il thrash metal dei tedeschi Tankard, con il loro boccale pieno di birra, e questa Zombie Attack, motivo che abbiamo ritrovato per legarci un po' al passato. Dal passato andiamo al presente, una band che suonerà il prossimo mercoledì 23 ottobre al Dutch Forum di Assago a supporto del 18° album in studio, Snake and Arrows, uscito a maggio di quest'anno, distribuito in Italia dalla Warner. Sto parlando dei Rush, il trio canadese, nato addirittura nel lontano 68, esordio che avvenne però un po' di anni dopo nel 74. Nel corso degli anni la band sperimenterà nuove soluzioni pubblicando sempre grandi album che li hanno resi noti in tutto il mondo, ispirando numerosi band. Hanno venduto più di 35 milioni di dischi. Questo Snake and Arrows si compone di 13 tracce, il primo singolo era Far Cry, quest'oggi li andiamo a proporre con il brano Armor and Swords. Ricordo che loro non hanno ben di supporto perché il concerto dura 3 ore e mezzo con anche un breve intervallo, con una mega produzione, cioè la scenografia è quella degli stadi americani, non per niente hanno scelto per motivi proprio di esigenza di spazi il Dutch Forum di Assago il prossimo 23 ottobre. Questi sono i Rush. Dream. grandissimi musicisti Rush, dal loro ultimo Snake and Arrows. Il pezzo si intitola Armor and Swords. Ricordiamo quindi la data, il 23 di ottobre ci stiamo avvicinando al Dash Forum di Assago, un'altra grandissima band, una tra i gruppi, una tra le band che ha venduto maggiormente nell'arco della loro carriera e nella storia mondiale, diciamo, dei gruppi rock, cioè i Def Leppard. Famosissimi soprattutto negli anni 80, arrivano dall'Inghilterra, risalgono al 77 con il primo nome di Atomic Mass, per poi cambiarlo nell'attuale Def Leppard. Dopo aver pubblicato un EP arrivano al primo album, On Through the Night, però il successo arriva con il terzo album, Pyromania, che raggiunge la posizione numero 2 nelle classifiche americane, non inglesi. Il successo lo raccolgono prima in America. Da segnalare, lo sapete, un grave incidente stradale occorso al batterista Rick Allen, che perde addirittura il braccio. Occorrono 4 anni, la band lo aspetta, ritornano in sala con lui, una batteria appositamente studiata, costruita appositamente per lui per poter suonare con un braccio solo. Il ritorno è grandioso perché l'album è quello Hysteria, numero 1 in Inghilterra, in America, in Canada, secondo in Svezia, Svizzera e in tantissime altre nazioni europee. Nel 91 purtroppo muore il chitarrista Steve Clark, il suo posto verrà preso da Vivian Campbell, che ha suonato nei primi 3 album con Ronnie James Dio, con i quali incidono Adrenalize del 92, quindi grande successo ancora una volta. Successo che comincia a mancare con l'album Slang, che si allontana un po' dalla loro prima proposta musicale, quindi i fan rimangono perplessi. Questo li fa tornare sui loro passi nel 99 con l'album Euphoria. L'ultimo lavoro in studio si intitola Yeah, uscito lo scorso anno, con formazione ormai stabile dal 1992. Oggi li ritroviamo, li riascoltiamo da Pyromania con Rock Rock Till You Drop, Def Leppard. Rock Till You Drop da Pyromania, i Def Leppard, e mi fa enormemente piacere chiudere la prima parte di Arden Devi di questa sera legata al passato con una band italiana dal passato, una delle più importanti heavy metal band italiane degli anni 80 che riuscì a farsi notare anche all'estero. Gruppo è di Milano, di Pino Scotto, quindi sto parlando, ora hanno cambiato denominazione eccetera, però sto parlando degli storici Vanadium, nati nell'80, esordio nell'82 con l'album Metal Rock, ben accolto dalla critica, vendette 8.000 copie, al quale seguì nell'83 il secondo album, Race with the Devil, che questa sera prenderemo in esame e ascolteremo proprio il brano d'apertura di quel lavoro, che vedeva la sostituzione del chitarrista con l'ingresso di Stefano Tessarin. Questo sarà anche l'unico cambio di line-up della loro storia, col nome Vanadium. Dopo un solo anno pubblicano Game Over e pensate, vendettero 54.000 copie. Questo successo gli permise di registrare un live album dal titolo On Street of Danger. Dopo altri tre album segue un cambio di etichetta a causa del fallimento della precedente, cioè la Durium, e la pubblicazione di Seventh Heaven, al quale seguì lo scioglimento nel 1990. Pino Scotto intraprende una carriera solista dove canterà in lingua italiana, coinvolgendo celebri musicisti del panorama rock italiano. Nel 95 avviene la reunion con tanto di pubblicazione di un nuovo album, l'ottavo, dal titolo Nel cuore del caos, questa volta cantato in italiano, e che passò, dobbiamo dire, purtroppo quasi inosservato, tanto che dopo un anno il gruppo si è sciolto nuovamente. A quel punto Pino ha creato una nuova band, gli ottimi Fire Trails, che nel 2005 hanno pubblicato il loro secondo album Third Moon. Fire Trails, lo ricordo, suoneranno questo sabato 20 ottobre allo Zoe Club di Milano. Li andiamo ad ascoltare allora, Vanadium da Race with the Devil. Questo è il brano dal titolo Get Up, Shake Up. So don't let down here. note che aprivano questo album, Get Up Shake Up il brano, con Ruggero Zanolini alle tastiere, Stefano Tessarin alle chitarre, Lio Maschironi alla batteria, Domenico Prantera al basso e naturalmente Pino Scotto alla voce. Erano i Vanadium, dal loro secondo album Race with the Devil. Vedetemi, molti me l'avevano chiesto di proporlo, sono andato a ripescare, grazie anche al nostro buon Simone, proprio le note di questa Get Up Shake Up dall'album Race with the Devil. L'appuntamento di Hard and Heavy prosegue tra pochissimo, ritorneremo insieme con i Primal Fear e il loro brano. Intitola Every Time It Rains, brano che ci permette di aprire la seconda parte di Hard and Heavy per questa sera. Un brano cantato a due voci, un brano dalle potenzialità di singolo. Voce femminile è una delle mie preferite come bravura e bellezza, insieme alla cantante dei Within Temptation. In effetti è pure lei olandese, e lei è la bellissima Simone Simons degli Epica, insieme naturalmente al resto della formazione dei Primal Fear. Lei è la special guest in questo brano, non male, Every Time It Rains. Ricordo che l'album nuovo si intitola New Religion. La band ha suonato ieri sera l'Alcatraz di Milano, per chi segue la replica un po' di giorni fa, quindi insieme a Udo, e questa sera replicano all'Alfeus di Roma. Quindi Primal Fear dall'album New Religion con il brano Every Time It Rains. La prossima band si chiama Subway to Sally. Il precedente album in studio, Nord Nord Ost, arrivò al numero 5 nelle classifiche in patria, e esce, la band è tedesca, ecco, esce questo fine settimana il nuovo album, si intitola Bastard. è una folk metal band che canta in lingua tedesca. La band nasce nel 92, dopo diverse esibizioni live incidono il debutto proprio nell'anno seguente, 93. È con il terzo album che però riescono ad approdare ad una etichetta di una certa importanza, cioè la BMG. Dopo altri due album passano alla Universal, tramite la quale è uscito il lavoro intitolato Engel Skrigger, che ha dato una certa notorietà alla band, tanto da arrivare al numero 9 nelle charts tedesche, oltre che in Svizzera e in Austria, dove hanno naturalmente un buon seguito. Tenete presente e sottolineo che cantano in lingua madre. Dal precedente album sono passati alla Nuclear Blast, che ne ha pubblicato nuovamente questo lavoro dal titolo Bastard, che esce in occasione dei 15 anni dalla nascita della band. Vado a proporvi quello che è il singolo, il motivo che andiamo ad ascoltare, si intitola Umbra, la band si chiama Subway to Sally. Ovviamente dalla Germania, come sentirete dalla voce, l'album si intitola Bastard, si chiamano Subway to Sally, propongono folk metal, questa è una semi ballad, scelto come singolo questo brano dal titolo Umbra. Questa è la versione appunto Radio Song. Continuiamo e cambiamo genere con l'album solista, il quarto della sua carriera. Si intitola Garden of Chaos per il cantante americano Rob Rock. Nel suo passato ci sono collaborazioni con Chris Impediteri, Axel Rudy Pell, Driver e più recentemente con il nuovo progetto Avantasia. La carriera solista comincia nel 2000 quando militava nella band di Chris Impediteri e l'etichetta JVC gli offrì la possibilità di pubblicare un album solista. Esce così il suo primo lavoro, Rage of Creation. Si trattava di un contratto per 4 album. Pertanto con questo Garden of Creation si è esaurito e termina il contratto. Per questo lavoro ci sono diverse collaborazioni. Alla chitarra abbiamo lo svedese Green Mark dei Narnia e Savior Machine. Al basso Andreas Olsson, anche lui dei Divine Fire. Alla batteria Andreas Johansson, presenti come special guest il tastierista italiano Mysteria, i chitarristi Gus G dei Firewind e Roy Zed, che ha coprodotto il lavoro, e il batterista Bobby Yarzobek degli Elford e Dex Eisdorf. Oggi presentiamo e proponiamo le note di questo motivo che si intitola Millennial Rain, Rob Rock. Power! Iniziamo parlando dei Falconer, questa band svedese ha finito di scrivere le canzoni che andranno a comporre il prossimo sesto album. Registreranno a... cominceranno perlomeno le registrazioni durante il periodo natalizio, il mixaggio dovrebbe avvenire nel prossimo maggio. A livello musicale, le canzoni vengono descritte come più veloci e complesse rispetto ai precedenti album. Ted Nugent, il cantante e chitarrista americano, ha collaborato ad un episodio dei Simpson dove ha doppiato il personaggio rappresentante se stesso. Gli Aerion hanno reso noto il titolo del nuovo album per la band appunto di Lucassen. Il titolo è 01011001. Bello complicato. E uscirà il gennaio del 2008. Parliamo invece degli L-Star, pronti a pubblicare un best-of, si intitola Sins of the Past, 11 classici della band risuonati per l'occasione con l'aggiunta di due nuove tracce più un'ora di materiale video, e dovrebbe uscire il 23 di novembre. Per il nuovo album in studio invece bisogna aspettare la prossima estate. La death thrash metal band americana degli IMSA ha registrato un nuovo video per promuovere il secondo singolo Big Timber, estratto dal quarto album Summer in Thunder. Per quanto riguarda gli IMSA, sono nati a Seattle nel 1998, dopo aver registrato un EP dall'omonimo titolo, arrivano nel 1999 all'esordio con l'album Groundbreaking Ceremony, al quale seguono diversi cambi di line-up. Dopo un nuovo EP pubblicano il secondo album. Ad un anno e mezzo dal precedente è uscito un paio di settimane fa questo quarto lavoro dal titolo Summoning Thunder, per il quale è stato registrato il video del primo singolo Unleash Carnage, e come vi dicevo hanno appena terminato di registrare il video per questo brano intitolato Big Timber. direttamente da Seattle, gli IMSA, formazione quindi americana. Dall'America forse per la prima volta andiamo a proporre una band dell'est, che di solito al massimo cosa abbiamo proposto? Qualcosa di ungherese, però dalla Romania raramente. Loro si chiamano Magica, proprio una band che arriva dalla Romania. Propongono un symphonic power metal, sono ben 6 elementi. Il cantato è femminile ad opera della 28enne Ana Mnadilovici. Spero di aver pronunciato, o perlomeno ho provato a pronunciare il suo cognome. Il gruppo nasce nel 2002 come progetto solista del chitarrista Bogdan Costea, che militava in una gothic metal band locale chiamata Interitus Dei. Coinvolge la cantante Ana, il bassista, entrambi della sua precedente band, e a line-up completata registrano e pubblicano nello stesso album l'album d'esordio, seguito dopo 2 anni dal secondo, che gli permette di andare in tour in Europa insieme ai Nightmare e gli After Forever. Questo nuovo terzo album si intitola Here After ed esce tramite l'etichetta IFM Records. È stato anticipato dal singolo che andremo ad ascoltare, il brano che apre l'album. Hanno realizzato anche un video e non contenti ne hanno già scelto un secondo, per il quale hanno appena finito di registrare il video. L'album è disponibile in 2 versioni, in Jewel Box con 11 tracce e in Digipack Limited Edition con 13 tracce più il video del singolo. Il brano che andiamo a proporre, come vi dicevo, è quello che apre l'album, si intitola All Waters Have Color of Drowning, dall'album Year After, in Magica dalla Romania. Waters of Color of Drowning, questo è il brano, il primo singolo dal nuovo album dei rumeni Magica, e chiudiamo L'appuntamento di questa sera con gli Exodus uscirà la prossima settimana su Nuclear Blast, il nuovo album The Atrocity Exhibition Exhibit A, questo è il titolo completo per il nuovo album degli Exodus, thrash metal band americana di San Francisco, nata nei primi anni 80 e dalla prima lineup aveva militato il chitarrista Kirk Hammett, che in seguito entrò nei Metallica per sostituire Dave Mustaine. L'esordio discografico arriva nel 1985 con lo splendido album Boned by Blood, che gli vale un tour di spalla ai Venom e agli Slayer. Per il secondo lavoro, Pleasures of the Flesh, c'è l'importante cambio di cantante con l'ingresso di Sousa. Nel 92 la band si scioglie per poi riformarsi temporaneamente nel 96 e registrare un live l'anno successivo. Nel 2001 il gruppo si riunisce per registrare un nuovo album con il primo cantante Baloff, che però purtroppo muore nel 2002, segnando in modo profondo la band. Viene così richiamato Sousa, con il quale incidono nel 2004 il loro disco di ritorno dal titolo Temple of the Damned. A 2 anni di distanza dal precedente album uscirà, come detto, alla fine della prossima settimana questo nuovo The Atrocity Exhibition, che si compone di 9 tracce prodotte dal celebre Andy Snape, dei quali è stato scelto come singolo Riot Act, il brano che andremo ad ascoltare. Per quanto riguarda la formazione, vi è il nuovo batterista Tom Hantig, che ha militato in un breve periodo anche negli Angel Witch, mentre rimane confermato alla voce Rob Dukes, entrato in formazione in occasione del precedente album. Diciamo che è prevista la pubblicazione di un altro lavoro con il titolo di Exhibit B. Per quello che vi ho detto, questo si intitola anche Exhibit A. Non so se poi ci sarà Exhibit C, eccetera, chi lo sa. Intanto vi lascio quindi con questo brano dall'album nuovo degli Exodus, in anteprima in Hard and Heavy. Vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto. Ci ritroveremo domani sera con un altro appuntamento di Hard and Heavy qua su Rock FM. Grazie al nostro sponsor Mariposa Dischi e a Simone. A domani, ciao! Good job!